Grazie, gli applausi. Vedete, figuri, vabbè. Quella era micidiale, come la mangiava? I cinesi per loro è una cosa normale, un senso di, soprattutto negli uomini, un senso di, come si chiama, di importanza. Mi ha raccontato una moglie, la moglie, la madre di mio cognato, e poverina, buon'anima, gli aveva affittato questo appartamento, non mi ricordo dove, questa volera, e c'erano questi cinesi qua, ma dice, ogni volta che andavano davanti alla gente si mettevano tra, dice, non è tranquilli, tipo quando tu fai uno starnuto, ma quello è una cosa normale, e poi non parliamo di tutto il resto, dello sputo, dice, è una cosa allucinante, loro è normale che sputino davanti alle persone. È una cosa allucinante, è un bucaccione, è un bucaccione binghinoso. Non lo so, io ti dico, come si chiama, il socio di mio fratello ne aveva uno di appartamento in affitto a questi qui, io non sono razzista, però forse sono capitato di male, non lo so, neanche l'idraulico dice che in vita sua lui non ha mai visto una schifetta dentro il lavandino, dice, la cosa l'ha mai vista, dice, quello che ci hanno buttato dentro, le ha cementato le tubature, l'hanno rotto per capire cos'è che non riusciva neanche con quegli affari ad alta pressione che usano loro per svoltare, che sono roba di vecchie atmosfere, non sono riusciti a crepare niente, l'hanno aperto per vedere cosa c'era dentro, dice, è una cosa mai vista, un orrore, dice, peggio di quando vai, cose in putrefazione, cose del genere, uno schifo. Perché loro forse sono abituati così, chi lo sa, hanno una diversa abitudine, le feci del caffè per dire le buttano nel lavandino. No, pane di tutto, e poi che roba di pesce, tutte quelle cose che si mangiano, tutto, bamba via. E mangiano roba molto grassa, roba grassa, fritti, tutte queste cose qua. E infatti, se vai a vedere le cucine, mi hanno detto che sono un bel sporco le cucine di cinesi. Ah, c'è stato l'altro giorno, stava raccontando la storia Antonio Grode, dice che è andato con questo tipo che conosco pure io, ufficiale sanitario, a controllare questo ristorante cinese. Sono entrati, gli ha fatto, non va bene qualcosa, quello straccio di lì dentro il secchio, pensavo fosse lo straccio per la quarantena, lui no, non straccio, ha detto che quello straccio non va bene, lui no, insistendo, a me cos'era? Un pezzo di coso, di fettina di non so che animali, lo stavamo mettendo a coso, a marinare. Schifo. È una bacinella, sicuramente pesce. No, non so cosa era, vero mamma, io in vita mia mai andato, una volta mi avevano convinto, non ne potevo fare a meno, andiamo, eravamo una greppa di amici che ci tenevano, dai andiamo, dobbiamo festeggiare, non so cosa, faccio un compleanno, ragazzi, un po' di gente. Manco mai, la volta non c'era a posto, ma io l'ho pregato tutti i santi, a parte che non saprei da che parte girarmi, io talmente sono strano a cucinare, mangiando, figurati se andando in chi ti presentano quelle cose che cucinano loro, va bene. A me invece, mi hanno convinto, anche io, a me non mi ispirava, anche se le amicizie mie andavano, intanto il sabato organizzava, noi andavamo da altre parti, ma al ristorante cinese non ci andavamo mai. Fatto sta che una serata eravamo a casa di amici, poi dai, io che non ti mangiare al ristorante cinese, dai. E io gli ho detto, lo sapete che a me non mi ispira. Guarda che un bel buono, noi a Genova, quando eravamo a Genova, lo mangiavamo tranquilli, non ci ha mai fatto male né niente. Vabbè, siamo andati all'emiciclo. Allora, prendiamo le solite cose, io gli ho chiesto bene o male che cosa era la roba più buona, me l'hanno detto, preso frutti di primavera, pollo alle mandorle, gelato fritto, tutte queste cose qui, le palme nane di quelle piccoline, insomma ho assaggiato un po' di roba, vabbè sono arrivato da casa, roba già da lì mi stava venendo un mal di pancia, cazzo, non ce la facevo più, non avevo il coraggio di dirlo perché eravamo in tanti e cose, mi dispiaceva anche rovinare la serata. Beh, fatto sai che la fila ce l'ho fatta più, ma ne sono dovuto scappare, letteralmente, perché stavo crepando dal dolore alla pancia. Sono arrivato a casa a diarrea per 3 giorni. così a me mi è successo in una pizzeria di Porto Torres. Cioè, il giorno ed eravamo vicini a Porto Torres da dove siamo noi, quando sono 5 km, il giorno stavo morendo, cioè non arrivo in tempo, me la posso in... Ti sto dicendo una cosa da morire, chissà, forse c'era qualcosa, qualche mozzarella, qualcosa era andata male, cazzo, un dolore alla pancia, dovevo entrare per fuoco e rimedio, in tempo sono guai, no, vabbè. Cambiamo discorso adesso, c'è stato qualcuno che svegliava a mancarsi. Perché sono cose naturali. Cosa hai mangiato? Frutti di mare? No, i frutti di mare io vado in posti sicuri, raramente le prendo, solo in posti sicuri. E anche io. Ma se andare a San Gavrino, i frutti di mare li prende da noi, quindi è più sicuro di così si muore, perché li prendiamo ogni giorno, vendiamo la vendita e giornaliera, quindi sempre freschi ce li abbiamo. Eh già, tutto è fresco quando lo compri la prima volta, però se la tieni un mese rampato o una settimana, già, io ti ho detto anche la ciliegia che è nominato, Massimiliano Ciliegia, ho preso i frutti di mare, io penso che la roba avanzata l'avevano scaldata, erano asciutti. Un fiago, mamma mia! A me mi aveva fatto male, lì, lo sai. Io ho preso Massimiliano Ciliegia, la pizza. E vabbè, può capitare, a me il dottore me l'ha spiegato, basta che ci sia una cosa che non va bene, anche se sei mille persone che stanno mangiando la stessa tua pizza, basta che ce ne sia nella tua pizza una che non vada bene e ti crepa. Sì, infatti basta un battero, una salmonella, una cosa, te la prendi, non c'è niente da fare. Però è da partito quando tu mi presenti la roba del giorno prima, avanzata, e le cotte, la zuppetta di cotte che sono andata a mangiare, me ne va in maniera una cosa sciolta. Un po' di volte perché il sugo non ti capita mai che ci mettono lo zucchero quando inizia a inacidirsi. Ah, e poi ne ho tanti amici che lavorano nei ristoranti, in mense, in cose, ci aggiustiamo tutto con lo zucchero noi. Vabbè. Però la roba se ne esce acida fa male, non è questione di zucchero. Ma non so, poi a un certo punto non basta più la correzione, io lo so. Ma questo che lavora nelle messe dell'ospedale, ma ormai è arrivato tutto quanto già preparato, le melanzane, le zucchine, tutti i pasti dell'ospedale, tutto già precotto, non devono fare altro che scaldare. Lo so. Sì, in ospedale sì, loro hanno quei portafrasi scaldati, che sono caldi, ci tengono il mangiare caldo all'interno. Lo so. Poca fatica a far arrivare a quei contenitori di plastica, hai un raggio militare. Mamma mia, guarda, io sono sempre stato contrario a queste cose immense, a mangiare, ma infatti a miei figli mai, perché ho avuto brutta esperienza da bambino, a me noi all'asilo ci facciamo rimanere tutto il giorno, quello che mi facciamo mangiare a forza, infatti molte cose le uso per quello. E la figlia della principale mia moglie ci ha preso la gastroenterite all'asilo. Vabbè, purtroppo quello può succedere in qualunque posto. Però sto parlando, c'erano quell'istituto dei ciechi in Viale Dante, non so se l'hai conosciuto tu, peggio di un lager era quello, mamma mia, che risussi. Infatti mia mamma non ci voleva mai credere, alla fine si è ricreduta anche lì. Perché tu hai l'istituto dei ciechi? All'asilo dell'istituto dei ciechi. Ma Viale Dante mi ricordo dietro, però, dalla parte di dietro. No, sulla strada proprio, vabbè c'è anche l'uscita dietro, c'erano anche un'uscita, però l'ingresso era davanti. Sto dicendo, era una tortura quando arrivavi di lì, a parte, mamma mia, quanto erano cattive le suore. Ce n'era una, me la ricordo ancora come fosse la morta, adesso sono Giuseppina, ma male che ero beccata. E poi venivano le signorine a fare pulizia la sera. No, tu come avevi finito di mangiare dovevi stare dalle 2 sino alle 5 che te ne andavi, o 5 e mezza, adesso non lo so, seduto in questo cazzo di tavolino al buio, ti mettevano in questa stanza, tutti in concerta, ma in concerta ti dovevi coricare sul tavolo con la testa. Stai zitto, guai, se qualcuno parlava erano già fuori. Ora che razzista. Io sto scherzando, ma lo sai le succe che abbiamo preso? Io non tantissimo perché non ero tanto, ma c'erano dei bambini un po' ribidi, ogni susa, ma che c'ha fatto a me, già me l'hanno dato, poi ti portavano in bagno, la sola, vieni, ti lavavano la faccia, mi raccomando non dire niente a mamma, ma schiaffi furti me già, no, schiaffetti, ogni già fatto. Buonasera, Luigi. Ben sentito. Poi allora, come va, sto a posto? Tutto a posto, non sono niente in ordine. E tu, hai mandicato? No, negativo, sono ritornato adesso. Ma è in girella. E fra poco mi si possono togliere anche le moto, fra poco fa caldo. E oggi già qualcuno è venuto, non officina del moto 2. Infatti ha detto, cos'è, il primo calduccio subito è morto. Io c'ero anche un paio di settimane fa in moto, di mattina, al freschetto. Anche io, un paio, due o tre settimane fa, quando ha fatto quello sole, sono uscito in moto, mi ho fatto un giro, sono sceso anche a Plattamona, stava bene. E adesso la devo portare a fare il tagliando, adesso come mi riprendo dall'influenza, telefono a Masera, ma mi faccio fare il tagliando e via. Neia, vabbè, io faccio tutto la me, non c'è problema. Tranne la lamiera, che non riesco proprio, e a voi la vernice a tu, e il resto faccio tutto io. No, io è a posto, così quando sono italiani i fatti, carta accanta. Per dire, a me mi hanno cambiato la frizione, mi hanno cambiato il serbatoio, tutto gratis. Il serbatoio perché dalla fabbrica avevano messo una vernice, roba all'interno di questo serbatoio. Cosa succedeva? Che praticamente la moto non mi tirava più, si intasava la pompa C. E cosa si tirava? Si tirava su questo pulviscolo che si formava all'interno del serbatoio. Ho usato una vernice che si polverizzava e me l'hanno cambiato gratis. La frizione, non so se era difettosa, slittava e me l'hanno cambiato. Eia. Oh, Robè. Dimmi, Dio. Ma in che via è l'officina? Cioè la carrozzeria? Vicino, dove si trova l'amico tuo, quel Danilo, in quella zona lì. Non proprio lì, però dall'altra parte. Verso lo stadio, dai. Ecco, mi ricordo che era dalla parte opposta, diciamo. Quindi è facile ritrovarla, cioè è facile trovarla. Auguria. Il mio cognome l'hai visto? Sì. Ci siamo da 57, di lì, fate un conto, già ci conoscono un po' tutti. Non ho capito, davvero. Se non ero fatto manco io ancora. E neanche io già. Aspetta, ci siamo. Io sono del 51. Avevo già 6 anni. Ma non sei oggetto? Del 51. Ma davvero per 70? No, davvero. Pensavo fossi 74, 75. Ma lascialo dire che era 50. Del 51. Non me li dà nessuno gli anni che ho, però ce li ho. Poi credo, quando mi stai prendendo in giro? Prendendo in giro. Se capita di ci troviamo in persona ti faccio una carta di vita. E oggi se stasera hai detto che avevi 39 anni, cosa si dice? Ma io nascondo sempre la mia età. Vabbè, prendiamola per buona. Non vi credo perché l'amico suo che conosce bene bene c'ha la stessa età di lui. Chi è questo amico mio? Ti metto che è amico di tua moglie, vi conosce da un sacco di anni, Daniele. Daniele Musa. Ah, senti, ma... Ah, sì, la senti. Sì, Daniele, sì. Daniele Bardi. Daniele forse è più grande, no? Più piccolo. Più piccolo. Daniele è più piccolo, forse di un anno. Daniele dovrebbe essere 74. Io sono del 73, dai. Siete più o meno coetanei, già me l'hai detto che come te del 51, cacchio. Ah, stavo scherzando. Ma 2 più 2 fa 4, Dipende. 2 e 2 potrebbe essere anche 22. Io ho detto 2 più 2. Prendi dai punti di vista, dai. Perché ti conosce. Se chi non ti conosce, vero, ma quando ti conosce non hai quell'età lì, o ne manco bassoni. No, ma io non lo conosco, però siccome l'altro giorno mi ha dato, ci siamo sentiti tramite cosa, Facebook, e c'è la fotografia sua e la data di nascita, per cui hai detto tutto. Ehi, sono stata 3, dai, sono giovane ancora, sono nel fior fiore della vita, speriamo. Siamo giovani, io sono 74, siamo sempre in Chivi. Sì. Io sono del 74, perché sì? Tu sei Roberto? No, io sono Luca. Luca, sì, è probabile, non so, non ti conosco. L'altro sguardo di io. 16-12-1974. Io non ti conosco. so chi sei. La malattia di nevaria. Ma comincia a fare, va. Come hai tu di canno sì? Io sono un bel giovane, anche se ho molti capelli bianchi, la barba bianca. Secondo te tu mi hai visto di persona, buonasera a tutti. Secondo me tu dovresti essere intorno a 70. Ah! Dal 70 al 70 come sta? No, ma forse non mi hai visto bene. Ma con chi è te lo giorno? Massimo è 75. Ma dov'è? 75 se Massimo già. Allora, anzi sono anche del 30, capito, di dicembre, cioè quasi fine anno. Cioè non quasi, fine anno. Allora so io, vabbè, non è che ci abbia molta fisionomia, non è che l'età le sappia valutare molto bene, perché capita gente che tu li vai di base a 60 anni e poi ne ha 40, oppure viceversa uno che ne ha 70 e sembra che sia un ragazzino. Allora Claudio a me mi ha detto l'età tua, e io ho detto che non ci credevo. Io a te ti davo, guarda, dai 45 ai 47, non di più, non di più. E invece mi ha detto che sei anche più grande di lui, figurati. Coraggio. Davvero? Io ne ho 49 comunque, Claudio ne ha forse un paio più di me. Quanti ne ha già Claudio? 53. Vedi? E vabbè, io ho detto 47, vabbè, mi sono sbagliato di 2 anni, no? Claudio 52, ne ha uno in meno di me. Cazzo, quello si dice. Più giovane è Luca, mio, un bischerello, No, più giovane è Massimiliano, più piccolo di me Massimiliano, di 1 anno già. Oh, ma vabbè. Certo, sei del 74. Massimiliano di che anno è adesso? 75. Ah, ho capito cosa, 73 Massimiliano. No, io sono dal 75. Ma io non sono cognato, quanto ne c'è? Ma allora, Gavino è del 61 mi sembra. Mi pare, Mi sembra già 51 anni Gavino. Hai detto no, pensavo fosse più giovane invece. Negativo. Cioè 51 anni, adesso non so se è da compiere o già compiuta addirittura. 52 magari, 61, siamo nel 2013. 52. Eia, 52. Non dimostra, minchia, pensavo siamo a 45. No, la mia infatti per fisionomia è molto giovane, non li dimostra gli anni che c'ha. 50 anni, avvicinante. Ma io sono fatto 50 anni. A seguire 48, poi 44, 43 e 39 io qua. Cioè, 39 devo fare dicendo, no? A voglia, venite. Tu pensa a Massimiliano, che io Gavino lo conosco da quando aveva 17, 16 anni, 17 anni. Beh, ho già, frequentava lì nelle tue zone. Ah, tu lo voglio, ma tu la televisione non la via? Televisione non la via. Massimiliano, non la via niente. Gianni, questa voce è tornata. Hai usato chi, come ti ho detto? Sì che l'ho usato anche lui. Più che altro però per i dolori, la verità. No, sì, quando ha fatto il soccorso, ma mi ha lasciato la febbre già sino a ieri, avevo qualche vignetta ancora, non dico altissima, però ce l'avevo, c'avevo 37,4, 37,6, sì. Oggi grazie a Dio sto meglio, proprio non ho proprio sfebbrato il punto, non ho manco una vignetta, l'ho misurata, non ne ho, poi già me lo sento addosso, dai, mi sento meglio. Mi ha lasciato la tosse, adesso ho messo questo spray nella gola per la tosse. Dopo domani si rientra a lavoro. Vabbè, Massi, risolto? Allora, scusa un attimino, già. Ma questo problema l'ha fatto a me, praticamente saliva, cioè io andavo a letto per il pomeriggio, mi saliva a ferro, proprio saliva. Per 10, non sono andato a me a letto, ora prendo un po' di latte, prendo la medicina, non bravo a Dio, poi l'ho costretto a alzarmi da un attimo, la madre mia, un freddo, io sto con questo, un freddo cane, mi metto un po' vicino all'attimo, un po' mi riscaldavo, ma sempre freddo avevo, poi una volta che io mi facevo il latte, mi prendevo la tipirina, mi andavo sempre col freddo a letto, tipo una mezz'oretta, sudavo un po' come, qua, come dovevo accorrere? Qua c'è il pischio. E sta povera non mi può bere tutta la notte. Poi domani un po' saliva, ma è sempre la sera che saliva la febbre. 38, 39, io quando era 40 c'avevo la febbre già. Ma ricorda che io che il mio cuore mai, non sono mai stato male, mai in vita mia. Vuol dire che è proprio un virus che c'è in giro. Ma c'è gente che sta ancora male, c'è al Puglia. La tosse mi è andata via, lo vedi? Mia madre lo stesso si guarita, ma noi lo stesso siamo una tosse, guarda, la paura. C'è ogni tanto un colpo, ma non è continua, capito? Vabbè, già giù le medicine, l'ultima che stiamo lì a girarci la scatola, perché è così, è un virus brutto che c'è in giro. Speriamo di non prendere la ricaduta, perché stavolta a mio mi fulmina, mi lascia a secco. Infatti la dottoressa mi ha detto, volevo rientrare, io ho detto, no, non rientri fino a quando glielo dico io, perché la devo visitare di nuovo, ma adesso devo controllare, perché lì c'è anche le vie respiratorie che sono un po' infiammate e cose, quindi meglio che si resti altri due giorni a casa, mi ha detto, piuttosto che si prenda la ricaduta che è tre volte peggiore. Adesso sto lavorando a scuola, c'è caldo, tu conta, i sbatti di temperatura, sto rischiando, perché dentro c'è un po' di caldo, io sono quelli che è cotte sempre, io alle 9, come arrivo lì, me ne levo la felpa, gli vuoto la felpa, sono quelli che è cotte, ma sto rischiando, se mi fulmina questa volta va, manco Gesù Cristo ci sarà questa volta. Ma stai lavorando all'insieme? Vale. Gli anticorpi per queste cose, una febbre o... E quando? Non so cosa significa una linea tra i freddi. Scusa. Ho detto che mi ho gli anticorpi per queste cose, ma hai avuto una linea tra i freddi fino ad oggi. Eh sì, ce l'ho guardato, l'ho sentito, no? Sì, è certo. Aspetta, sì. No, sto dicendo anche a me, cosa stavi dicendo già, ripeti? Non mi ricordo. Ma comunque... quando fai il soccorso è quella la ragione, ma Lucchi ti voglio dire una cosa, che fa bene per una cosa ti rovina lo stomaco, quindi guardati bene da prenderne molto, perché è una medicina molto potente, molto forte, che rovina lo stomaco, e non solo, anche il rino. Lo so, ma perché prima non faceva nessun effetto, non faceva effetto, tu facevi la scatola, comprata, accanto la parte, non quello, se non mi ricordo, non ha fatto niente, nulla, ma neanche sudare, c'era proprio una calmata, l'unica cosa era l'occhio, con l'occhio mi sono curato, ma infatti mi ha detto una ragazza su Facebook, io c'ho una mia amica, no? E ha detto, guarda, io l'ho preso, ho preso quello al tuo, che la volta che prima non mi faceva nulla, con l'occhio mi sono curata. Cioè, si è buttato giù la prima 40 con l'occhio. Lo so già, basta andarci piano, ogni 6 ore, ogni 8 ore di prenderla, no? Ogni 10 minuti, no? Cioè, se la prendi spesso, non è ti buca lo stomaco, cosa di invasi. Lo so che fa male, perché è molto forte come medicina. Comunque io ripeto, l'anno scorso, 2 anni fa, forse 3 anni fa, ho avuto l'influenza, roba bassa, 37 e mezzo, 38 non di più, cioè ma non tutto questo, era proprio una cavolata, un po' di capogiro, un po' di mal di testa, sai, le solite cose, ma guarda che prima mi sono curato, ma questa volta non ho fatto effetto, vuol dire che l'influenza era, non lo so, esagerata, ma secondo io guarda, sono andata alla grande. Non c'era altra medicina, solo ed esclusivamente occhi. Non so, infatti mi dico, ma adesso gli diamo una regolata. Comunque io quando ho mal di testa, cerco di farlo passare così, e se mi fanno la bustina, solo quello mi fa bene già. Oh, intervento io. Migliorato. Passi. Avanti, va. Grazie. Passi, risolto hai quel problema di stasera. Domani ci riprovo, là. Ho detto, Lucalier, ma sicuro sei che è migliorato? No, cazzo, ma non fa vedere di voi, tutto andava per i passaggironghi, la dio qua, ma non ho voluto far vedere una cosa, e subito la andi. Ma me lo comprendo. Ma come ce l'hai? Quindi ieri ci la metta, loro guardano i passaggironghi, no? Poi sono guardano i nomi di radio, di microfoni, di ghiaccio, ma tutto andava bene. Datemi una cucca. No, ma loro parlano una cosa, che è successa? Io parlo in generale. Cazzo, Luca, che sta proprio furente, sì. Certo, ma sicuro sei che sei, che sta per guarito. Stavo ascoltando il discorso, poi non lo so, vedi tu. Ma capito mettere la riga, Massimiliano. Cosa? Capito mettere la riga. Dai, ma tu, stava bene accanto, mi saluto, ora me la piglia di qui, ciao. Luca. Se volete intervengo io riguardo del Lucchi. Ma ricordati, tu non era influenza, perché l'influenza è una cosa virale per cui Lucchi non sapeva niente. Tu c'avevi un'infiammazione, hai usato un antinfiammatorio. Lucchi è un antinfiammatorio, probabilmente c'avevi un'infiammazione alla gola e ti generava la febbre. Lucchi e Lauli sono degli antinfiammatori fortissimi e ti calmano l'infiammazione. Quando cambi l'infiammatore automaticamente elimini la febbre. Poi se c'è l'influenza, Lucchi ti può calmare il dolore, il mal di testa, i sintomi, però non ti toglie l'influenza perché è una cosa virale, non c'entra niente, è solo questo. Poi Lucchi devi sempre normalmente si prende a stomaco pieno e poi aiutandoti eventualmente con i protettori gastrici, se no ti puoi creare con l'uso prolungato, infatti loro non ti dicono più di una settimana ad utilizzarlo perché sennò ti crei grossi scompensi sia allo stomaco e soprattutto ai reni. Te lo dico perché lo so con certezza di questo fatto. Sì, ma la tavola di grosso, lo so che è una medicina molto pesante, però ti posso dire che, insomma, io quando non gli dico, se dice che sono fatto male, anche se è un antinfiammatorio, ok, però l'unica medicina che mi ha aiutato è quella, non a me, tachipina, non ha fatto niente. Se non c'è quella, la tachipina, a caso non mi faccia nessun là, né la febbre è sempre alta, invece perché un occhio io riuscivo a dormire, me lo spieghi? Poi non è fatto bene, poi non lo so, sono stato fortunato, comunque non è stata una ragazza, non è stato proprio un mio uguale, con un piede si è curata, è caldo, morrete, ovviamente un qualcosa, non so, mi metto il pane dentro il latte, no? Per essere più sostanzioso. E mi sono fatto così, però non cerco di. Io sono contro le medicine, sono contro, io non ho molto mal di testa. Mi si gonfia una notte, non sto lì a perdere tempo a stare a prendere la medicina, cioè Ucchi, perché io ho solo Ucchi, non ho altre medicine, perché non mi fanno un cavolo le altre. Ma insomma, normalmente una notte mi passa. Bisogna essere un po' zingari per non ammalarsi. Avete visto gli zingari? L'inverno anche a mai che cosa è fatta uccidere i bambini, se non so male hai mai. Dopo si fuoco. Allora, per quello ti sto dicendo, il discorso dell'influenza è una cosa virale, gli occidentali non ne hanno mai sofferto di cosa, di influenza, di raffreddore, sono sempre a rughiaccio, perché non si prudi. Il problema è quando vai in zone frequentate, basta che ce l'abbia uno e contagia mezzo mondo, supermercati, zone chiuse, è quello il problema. Tu non avevi l'influenza, Luca, tu avevi un'infiammazione alle vie aeree, alla gola, e te l'hai curata con l'antinfiammatorio, perché non c'entra niente la cosa, quello che hai utilizzato tu, la tachipirina ti calmava male i sintomi, ti dava, se ce la faceva pure, però non te lo curava perché non è un antinfiammatorio la tachipirina, non c'entra niente. Robè, ti sto dicendo che io con febbre quasi a quasi 40 ci mancava poco, perché me la buttavo giù, cazzo, la Ucchi, me la buttavo giù, c'avevo febbre, c'avevo febbre con niente, mi dimenticavo tutto il giorno con la febbre, sono sicuro, 100%, invece con Ucchi mi ha buttato giù, proprio, mi ha guarito. Credo Luca, se mi stai dicendo ti faccia male la gola non c'entra niente l'influenza, l'influenza mica ti dà il mal di gola, non c'entra niente, ti ha altri sintomi, cose del genere, ti può dare mal di testa, dolori reumatici e cose del genere, perché tu hai preso un'infiammazione alla riena, alla gola, e ti ha pigliato un antinfiammatorio e la medicina sua, se poi non basta l'antinfiammatorio ci sono le medicine ancora più potenti, ci sono gli antibiotici, però tu con l'antinfiammatorio ti sei sistemato la cosa, e come si chiama, la malattia. Facciamo la febbre alta, Robè, cazzo di diavolo. Per la febbre non ce l'avevi la febbre? Fino alla 40 quasi, Robè, cazzo di un disegno. Sono stato malissimo io. Non dico come già che già mi è mancata la voce, ma male, male, male. Cioè, c'ero molto male. Dolori, a tre palle, le gambe. Io non mi sento più le gambe. Dico, come hai messo i denti? Andiamo via, veramente qua. C'ho una febbre alta, io mai così in vita mia, Robè. No, c'è scritto su Facebook, così, non devi i numeri, io non riuscivo a dormire neanche, cioè con due piumoni, tappato bene, una freddo, non c'è cose, ma era più qua due, era troppo caldo. La mattina di lavoro c'era un freddo, ma proprio quel buh, una cosa avvicinata, una cosa strana, veramente strana. Che è quello che sto dicendo io, tu quando c'è un'infiammazione automaticamente si forma la febbre, è una cosa normale, come quando c'è una ferita, se tocchi il punto dove c'è una ferita nel caldo, certo la temperatura è normale, tu ci avevi un'infiammazione automaticamente, molto grave sicuramente, un'infezione, un'infiammazione, parole povere, e automaticamente l'organismo per reagire, per ammazzare il coso, la malattia, il calore che l'ammazza, c'è una protezione all'organismo, infatti tu quando c'è il caldo, dentro il posto caldo, quando c'è l'influenza, deve stare un posto caldo per ammazzare il virus non resiste al calore, se te ne vai l'aria aperta è peggio che mai, ti è ancora peggio, ti peggiora ancora la situazione, infatti per quello si dice, rimaniti chiuso a casa quando c'è l'influenza, tu avevi un'infiammazione, sei stato al chiuso, hai preso l'antinfiammatorio, che è lo che è uno dei migliori insieme all'aune, sono i più potenti in assoluto, e quello lì hai curato l'infezione, e automaticamente come curi l'infezione ti abbassa la febbre, è normale, ma non credo che c'è l'influenza quella, perché tu se c'è l'influenza con l'antinfiammatorio non la curi l'influenza. Adesso ci vuole diciamo sempre la febbre alta, vabbè forse male sarà causato da quello, ok, ma io mi sono curato con quello, infatti tanti in altre volte ti dici guardo con occhi quando non hai preso la tachipirina delle acque al soccorso, ma se non mi faceva niente cosa avevamo a fare, non lo spieghi, e non l'ho più preso, e di la scatola se mancano due, e poi ti manca me, se mancano ancora non mi fa nulla, non fa effetto. Vabbè, comunque è il problema adesso, me la fottimuta. Il problema è la ricaduta, infatti adesso io il motorino c'è un po' di freddo questi giorni, poi lavoro non a scuola, c'è un caso che si muore, a stare con la peppa non fa, perché stai entri, ma è esattamente che mi fulmina, va, ne sono più che sicuro. Sì, infatti il problema sono, no, ma non è tanto lo sguardo tecnico, al limite se fa una sudata ti prende una freddura, il problema sono i virus, quando sei in un posto chiuso, se sei in una scuola ci sono i bambini lo sai quante malattie portano, tu non hai idea, cacchio, ogni bambino questo lo trasmette a tutti gli altri bambini, poi di lì sono posti chiusi con climatizzatori e cose del genere, magari non cambiare i filtri e tu ti prendi la malattia all'interno, in un posto caldo, magari c'è tutta la dia, l'aria messa non ti bidi nulla. Capite? Allora, a me è successo un altro ragazzo, no? Siccome la madre mi chiama a fare dei lavori, no? Io sto in quello, sei giunto con le candusse, ma tosse è brutta, è proprio di quelle catarrose, ma guarda, è allucinante. Il tempo di arrivare, vediamo da vicino alla foresta, già anni abita più o meno, dai, guarda una lì, la parte alta però. Mi ha chiamato, buonasera, no, di pomeriggio mi ha chiamato, da quella era 10 minuti, boh, un quarto d'ora, 20 minuti, no, se non mi ricordo, stiamo arrivando a casa, stavo già male, sono una cazzata, mi ha consigliato lui a me, e infatti lui mi aveva detto che aveva dei problemi alla gola, c'erano le tonsille gonfie, è dovuto andare urgentemente alla guardia medica perché non diceva più neanche a mangiare, a buttare niente giù. Ok, vabbè, facciamo riprendere prima Gianni e poi a Eugenio che siamo monopolitano. Avanti Gianni. Cappa, comunque quello che ha detto Robert è giusto, perché la tachipirina non ce la faceva perché c'era l'infiammazione della gola. Lui invece ha fatto passare l'infiammazione e ti ha passato anche la febbre per quello. Sicuramente è quello perché ti ha passato di saliva, quindi è così. Avanti Eugenio. Cambiano discorso, non c'entra nulla. Vicino alla pineta di coso, di Bar di Manna, dice che hanno aperto un locale che si mangiano solo cotte, tutta la volta di cotte, niente ne sta aperto. No, è la prima cosa che sento, solo che ci sono dei locali all'interno, ma ci sono dei bar, però non so se si mangiano cotte o cosa si mangia. Dice la prima cotteria in Sardegna, dove si mangia tutto a base di cotte, in tutti i modi. Cazzo, ma da cosa? Vabbè Luca, a me mi piace non me le cose, se me le presenti in 4 o 5 modi diversi già sono buone, gratinate, agli prezzemolo, al sugo, magari messe con altre cose che non conosciamo, già mi piace nel gruppo a me. Il cozziaglio, il prezzemolo, il peperoncino, il vennello e un po' di limone sopra. Guarda su Facebook le mie foto, c'è qualche piatto di pasta e cozze fatto da me quest'estate scorsa, qualche a me, però boh, sai, io ho mangiato altre cose, ho paura, boh, perché guarda, da poco mi sa, o anche per esempio una signora, mangiava le cose, è morta, ma signora, signore, altre giornate l'ho sentito, e infatti boh, non mi fido, sarà, però non, boh, io le compro dello spin, capita, molte volte le trovi belle, belle, quelle varie, quelle un po' più piccole, piene, ma compriamo quelle più grandi sono vuote. E insomma le ho trovato piccole, piccole, piccole. Però boh, no, paura, paura. Infatti quest'anno sono sicuro di non mangiare neanche una perché no, non mi fido. Pappa, no, io già ne mangio, me ne prende un chilo a posta per me e me ne mangio io da sole. La mattina e la sera me ne fanno due muti e me ne mangio tutti quanti. E un altro discorso cambiando, già ne lo conoscevi quello che è morto per le Ricci? Ma Roberto, non sono riuscito a focalizzare bene la fotografia quando l'hanno dato al telegiornale di Figliolina, perché era un po' offuscata, no? Tutta la gente che c'era lì aspettando la conoscevo, però a lui non l'ho visto bene. Ah, ma per sbaglio stai un po' saturando tu? Daniel. Aspetta. Adesso sembra di no. C'è una fotografia bene in giornale, però non mi sembra, 45 anni vuole l'araccio, ma deve essere quello delle bombole questo qua. Cosa? Sì, andava a prendere Ricci, è andato col suocero. Sono usciti per andare a prendere Ricci poco lontano dal porto, dai, quasi all'imboccatura lì. Sono lui come si è immerso, il suocero non l'ha visto risalire più, allora ha chiamato aiuto e l'ha trovato morto. Ma quello che non riesco a capire è l'hanno trovato a 5 metri di profondità con le bombole. Oh, e tanti chili di bombe ho messo a posto. Probabilmente c'è che si ha messo più chiombo del lì, poi c'hanno, vabbè, il gabbo non credo che lo utilizzi, c'è andato a fare roba di nascosto, ma cazzo blu, io non lo so. C'hanno trovato dei ragazzi, un tipo l'ha trovato, la capitaneria gli ha detto di dargli una mano a cercarlo, l'hanno trovato lì vicino a coso, a Balaimi, 5 metri d'acqua. E ha avuto qualche malessere sicuramente, dal freddo. Boh, allucinato. Cacca. Oggi per dire, poverino, mi fanno anche pena questo per guadagnare qualche spicciolino. Poco fa stasera sono andata alla Conad, c'era una signora vecchia, cioè, ma aveva fatto una bena, dice, sono povera, sono vedova, ma una signora si vede che era una brava gente, cioè non era zingare di chi si andaggi, no? Una persona sicuramente vissuta, cioè che ha fatto una bella, non era messa male, vestita male, poverina chiedendo l'elemosina di lì, era una, ma ha fatto una tenerezza. Sì, quanto se ne trova una roba. Ohia, la gente sta facendo fine brutta, anche quelli che campavano tranquillamente dallo stipendio, non chiedevano niente a nessuno, riuscivano a sbarcare il lunario, adesso non riescono più. Guarda, come lì, per andare a ferrovia, lì c'è quel cazzo di rumeno, cosa sei visto qua c'è il braccio, cosa fa questo scemo? C'è freddo lì, lui si alza la manica, per favore, sembra che c'era tutto messo male, tutto blu, forse è stato operato, ma è messo proprio, c'ha tutto piegato, e c'ha una cicatrice un bel grande, un bel profondo, fa anche schifo a vederlo, guarda come sto qua, c'ha la manica, e si mette la sua qualche dei spiccioli. Beh, io sto parlando di persone normali, non di gente così, di molti zingari che andano e poi vanno a vedere acquardi. Lo sai quanto li danno? Stavo parlando con un amico l'altro giorno dal comune, lo sai quanto li danno al giorno agli zingari? 30 euro a persona, non a famiglia, a persona al giorno, e più li danno i buoni benzina. Capito, e tu, non tocchiamo questo discorso perché... poi alla fine non conviene, vabbè, cambia discorso, che meglio va. È entrato un amico mio per dirmi per quanto è sbagliato lo Stato, quello bisogna dire a chi ha votato certi partiti, che fa installazione di impianti di climatizzazione e lavora anche per conto del comune, è andato dove ci sono loro, dove c'hanno l'accampamento, a montargli le pompe di calore, pure hanno voluto, li stavano montando con le pompe di calore e con le sottomarche, ma sai cosa ne va tu Ghitti? Te l'hanno mandato, ha detto o ci monti i Daikin o i Fujitsu, se no non ne vogliamo, e te l'hanno mandato, l'hanno pigliato a pietre. Guarda, questo come hai detto, uno che fa questo lavoro, per dirti. E anche poi vedo questa donna anziana poverina che gli danno 300 euro di pensione se vi laburo all'anno, hanno mesi chiedendo l'elemosina, ma mi ha fatto una pena. Guarda, io non ne do mai di soldi a questi mendicanti, a meno che non siano tipo senegalesi, gente così. Gli zingari non hanno mai dato mai una lira, perché quelli hanno la possibilità di andare a lavorare, però se lo dici non ci vanno, perché io gli ho detto, ma perché non vai a cercare? No, io non lavorare, io non lavoro. Qui si risponde, però questa signora mi ha fatto una bena, ti sto dicendo, a quella lì gli bisogna dare i soldi, non a gente che andrà a furare dentro gli appartamenti o a fare cose strane. E a me è successo, allora lei lo spine di via il Porto Torres, no? Arrivo lì, guardo nel cavello, praticamente c'erano due zingare sedute con un bambino in braccio, no? Allora il cavello e ci metto il gettone, non c'ho soldi, no? C'ho sempre il gettone io. E ho detto, ma c'è una presa, è tempo di parlare ad uscire, mi blocca la zingara, ma dai il cavello, c'è il gettone. Non ti credo. Dicevo, ma c'è il gettone, perché non mi credi? E io non ti credo, tu bugiardo. Ho detto, Giulia, certo, ma c'è il gettone. La cosa scommessa, gli ho detto, ma vai a pulirlo tu a me, ti lo cadono, ci stai. E lì, non ti credo. Fai un euro, gli ho detto. Fai vediamo se c'è il gettone o ci sono soldi dentro. Dicevo, non so che te li prendi. Beh, non mi ha creduto, Robert. Fino a quando non ho fatto il gettone, però non va bene, prima pensiamo ai nostri poveri, non a quelli delle altre città o dell'altro, degli altri stati in questo caso, assolutamente. Tempo fa, quest'estate, l'hai visto dove c'è l'officina io, lui? C'è un cancello a fianco alla porta principale dell'officina che porta nell'altro locale. Catenano i centrati dentro con un furgone, un camioncino, quel Ducato bianco che c'hanno a Cassone, che c'hanno loro. Ho detto, ma lì tu moglie che c'erano una bambinetta piccolina, però è tua officina, che avevano visto c'erano dei pezzi di ferro. Cazzo, blocca tutto, dove stai andando? Blocca tutto. Ma io pensa, se c'è correndo, se no chiama i carabinieri e ti faccio arrestare. Voleva prendersi il ferro. Ma non ti vedi che c'è la sta roba. Infatti quando passano loro subito, chiudi tutti i cancelli, non fa vedere niente, chi ti mette la notte e te ne vuole nel muro dei mutanti. No, avanti. Dai, ripetete voi che mi assetto, voi vado a cercare a mangiare, c'ho fame. Ripeti tu, Eugenio, scusa il ping pong. Andate. No, mi dispiace per Massimiliano che ha interpretato male, o tu Luca, non lo so, non è successo niente comunque poco fa. Non ho interpretato male, cioè, ognuno dice la sua, io vado per la palla, sto zitto, forse è meglio, e parlate voi. Non vedo una mucca, quando li vado di sui. Qui sono sempre, la prima volta non facciamo lo stesso, vabbè va, meglio che io mi metto zitto, insomma poi faccio danno e mi sto zitto. Parlate voi, dai, prendete voi. Non è successo niente, concludiamo infatti domani per Massimiliano, finiamolo qua il discorso, se no poi male da una fesseria. Comunque non ha detto niente, non per difenderlo, ha detto soltanto, ha fatto una battutina e si è guarito, ha fatto così, che non si è guarito o si è guarito, ha detto solo così, probabilmente è stata interpretata male, dai, non è successo niente comunque Luca, dai, non ti preoccupare. Che lui stava parlando dell'attacchipina, lui gli ha detto, ma sei sicuro che ti ha fatto guarire? E Luca ha capito male, capito? Sei tu Luca che hai capito male, dai, l'ho capito anche io cosa ha detto. Poi è importante chiarirsi, non è successo niente, assolutamente. Beh, già, anche io devo chiudere, dai, che ci sono già un pochettino in radio, diciamo non consecutivamente, perché l'avevo lasciata accesa, poi qualcuno si è sentato, dai, io adesso stacco, ci sentiamo, auguro a tutti una buona notte o buon proseguo se c'è qualcuno che vuole continuare, io faccio QRT. Ciao ciao, ciao Gianni e tutti gli amici di Nascondo. Ciao ciao Roma, ci sentiamo. Chi c'è avanti? Ciao Roberto, ti saluto, là, c'è la gente permalosa nel Bulgaria, va bene, ho capito che voi avete capito la battuta, là. Vi saluto. Massimiliano, la situazione non è successo nulla, Luca è un bravo ragazzo, tu sei tranquillo, per cui non peggioriamo la situazione, non è successo assolutamente, non lo sportiamo per una fesseria inutile. E appunto, va bene così, ciao. Ah, Massimiliano, quando è che lo porti a elaborare quella cosa? mi prendo un'altra cosettina già. Pensavo che l'avessi già data a Gigi. No, però ne ha già parlato Gigi. Quindi siamo fatti Puglia. Ma tanto lì cosa li dovresti fare? Solo la camera e basta. Lì bisogna togliere questa scheda dell'eco sua che c'ha e mettere quella colt, boh, perché il retro poi c'ha tutto. Infatti. E le luci blu così. No, quelle gliele faccio direttamente io, domenica. Ma mi sa te dove? Beh, tanto sono LED, non è che sono lampadine. Ma quella del frequenzimetro come sono? No, quello bisogna cambiare tutto il frequenzimetro, non sono lampadine quelle, no. Quelli sono cristalli liquidi, hai capito? Quello bisogna proprio cambiarlo del tutto il frequenzimetro. Ah, ecco. Dava gava. Dai, già, io ancora non ho cenato, mi siedo a mangiarmi un morso, poi se c'è qualcuno riprendo, là. Sentiamo dopo. Ok, io sono qua, se c'è gente, siccome c'è gente sono qua. Andà bene, ok, dai, a dopo già. Ciao. Lucrezia, avanti che è rimasto sulla 10, cambio. Mouse. Mouse di vecchio. Questo è Gianluca sicuramente. Gianari, ciao. Mi sbagliavo. Ma che? Ha detto là che mi sono così chiamati, Gianari, che sono rientrato con il comandamento. Pagata. È freddo lì, ti fa male. No, no, già mangiato veloce, ma ero con degli amici che stavamo discutendo di alcune cose, non so se ci vedevamo, ma ho giocato un caso, già rientrato. Ma bene, andata via. Fa bene discutere, tutto che siano cose diciamo che non ti facciano bisticciare, che sia una discussione tranquilla. Sì, non è così bene, è un po' fumato. Io ho nostalgia delle serate che passavo con gli amici quando ero a casa di mamma, facevamo le fidanzate e ci trovavamo tutti a Sacro Cuore. Dopo che lasciavamo le ragazze ci andavamo al pub per dire tutti in greffa, io grande mamma e suo panino via, tutti quanti insieme, e poi ci facevamo una chiacchierata, ridevamo e passavamo serate così anche sino alle 4 di manzana. Decido magari, no? Un attimo già che le preparo, dai, le prendo tra qualche secondo. Sì, io. Avanza. Fatta virare. Sì. Sono arrivata sopra, un attimino, guarda un culo. Ma se no come sempre di va, sempre di va. A me lo si intende, per carità. Mia moglie registra gli sportivi dell'armadio, va bene, registra gli sportivi, cambia le prese della luce perché ce n'era una che non funzionava e cambia la ghissa e stringi quello e fai l'aspa. La seconda cosa che mi ha fatto di fare da parli di cose cazzo di giocamenti essendo obiettivo. Non tutto eterno, no? Non tutto eterno, ma cazzo va, succede le cose, cazzo proprio, cazzo manco, proprio quando non come si dice, il momento meno opportuno. Lo so, è come tirando manca la bombola, no? Sempre di domenica. Cazzo, diavolo, paura. E vabbè, e cosa ti è successo? Tu da sopra farà sopra che dove si chiama delle cose. Ero già ciammato, già avuto il pigiama tutto quanto, ha già preso la televisione, poi c'è la famiglia a Padova Mazzano, e niente, vabbè, la già so così di, insomma, ma che va a puzza. E vabbè, ti è passata, eh? Per i imprevisti che non sono stati programmati magari. proprio nel momento dove non devono capitare. Cosa vuoi va? E allora, il K non attacchiamo lui. Il K. No, già, sono io dai nove, tu attaccato l'hai. E io mi ho già attaccato, non lo intendo. Già. E come ti posso attaccare se non l'ha giù io? Sì, ma lui se no vuoi dire a me. Due. Ma non andrà male, dai. Ma voi maledetti che andate? Sì, sì, sì, stai tranquillo. Ho provato pure tutti gli occhi. Ma che? E lui lo sapevo. E si sente come una telefonata, Ma si è già parato o no? No. Dopo domani. Io se ando dopo domani non scendo. Bisogna avere un po' di pazienza, se avesse potuto me l'avrebbe salito lui, ma non può. Come fa? Ma poi io voglio fare le cose con calma, no? Non affrettatamente. Ma anche perché devi vedere il fuoco, giustamente, a base da me che non ti lamenti più, magari qualche cosa di te. Sicuramente sfugge, dai, capito? Giusto per dare una rinfrescata, una spolverata. Sei un bel barone, sarò 4 anni, 3 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni che non è vero. Tu figurati che sono rimasto io, loro che attendito. E i memori che mi ha fatto Claudio, così lo giro, e dopo che c'è un microfono, butta a faccia. Non tocco di tacco. Manco... E ascolto, fa. Sì, sono cambiato il bando, giustamente, quello che vedi, proprio si è occupato di tribuzioni, non ho detto lo dato a lui. Sì, vabbè, interessa a te che ti usi per quello che ti serve. Sì, per dire, capito, non è che sono di cognitiva, ma parlando lo sai quinto, ma come ti sei fatto lì, come ti l'hai ricordato, molto più. Sì, vabbè, anche io lo sapevo così, non ti credere, facevo un po' di ascolto e via. Non è che ci sia questo granché da toccare, No, vabbè, c'è il VFO, c'è le memorie, c'è quelle cose lì. Sì, vabbè, ma non ha a che vedere con quelli digitali che hanno il menu, sotto menu, che hanno i telefoni, mi pare. I peggio sono, io so che telefonini sono. Chiederà a Claudio come si può vedere i digitali. Poi te ne va a parlare un gambo. Sì, vabbè. Assolutamente, però rimasto pure alla vanguardia della conoscenza, capito? È una cosa che ti dico una cosa che dopo non sai mai quel cazzo sapete, gira. Infatti. Ognuno il passo secondo la propria gamba, così. Sempre, e che se fai un passo più lungo, cada faccia a terra. E poi bisogna essere portati, bisogna avere la passione per certe cose. Io perdo la pazienza, dico la verità. Soprattutto la pazienza perché giustamente è la passione che ti porta a spendere del tempo che ti ci metti lì e vedi, prova, io voglio subito, Già ricevi tu lì da Mattaleggia, secondo cosa c'hai? Guarda, mi piace la radio, però deve essere anche una cosa abbastanza pratica, che non mi deve impegnare più di tanto, capito? Non devi diventare un travaglio. È semplice deve essere, una cosa semplice che ti faccia fare le cose che vuoi. Ma se tu mi dici vai a mandare a serale, io devo girare un pomello e dopo che mentre tu fa vedi con l'altro fai di sintonia, punta e bacia, e qui c'è un microfono e siamo a rete. Sì, è così. Sì, ma io già c'ero andato con l'altro che avevo, quello lì che avevo. Sono andato in mandato laterale. No, gli Alfa non mi ricordo se c'è 10 kHz. Come? Per i canali Alfa, 10 kHz ci sono. Sì, se ti torni così non hai bisogno di 10 kHz, Gianni. Tu giri un web, tipo 10 kHz, 5 kHz, 1 kHz, tipo chiusura continua. Ah, è vero, è vero. Mi sono cercare buco. Poi valughi voi. Da 0 a 30 poi valughi voi. È vero, è vero. E comunque... E lui diamo l'apparecchio, mi piace. È bello anche il garage, se il garage è un apparecchio di usa verde. Mostruoso. Nella sua gamma, qui della biblioteca mega sto parlando, quindi 11 metri, è secondo me uno delle radio che non è manco di musi recente, ma è d'epoca, che forse è d'epoca San Radio, è voluta. A me piace un bel come te, a parte il fatto che è una radio che ti riempie la situazione, perché è un medù, è una bella radio, che va di misuri, va di appunto è massiccia, non ha bisogno di nulla, autoalimentata, autoalimentata. Alimenti con cui tranquilla, allora passi, si vedono bene con l'antenna, se non hai, è tutto a posto. Ti controlli il rosso. Soprattutto, cosa ti posso dire, cosa me la dire, ma una bella, soprattutto una bella, a me piace la ricezione. La ricezione di San Radio mi piace. Dopo cosa ti posso dire? Una radio completa, insomma, fate di una che andrò poi a fare un tavolo, penso. Vabbè, e poi dove ce l'avevo io? Tu hai visto dove era la mia? La tua radio va bene, perfettamente funzionante. Vabbè, no, ma io tutte le apparecchiature le tengo nuove, Massimiliano già lo sa, mi ero venuto più di uno di apparecchio, non ha mai avuto nulla da dire, perché tutto è perfetto. Certo, le cose invecchiano già, per carità, giustamente. L'uso del tempo, secondo come lo uso, si nota. Però l'efficienza deve essere elettronicamente, secondo me. Se ci lei da cui ho aggiunto, no, anche per lui non ha fatto ristrutturato. Ma una tesi è istituto, capite. Però, insomma, meccanicamente è perfetto, eh? È da disuso. Beh, adesso è questo, è questo. Anche il K che ci avevi ce l'ha forato sopra, quanto so. Non ho capito bene, ripeti bene quello che hai detto, il K? Metto quello che c'hai, il K, ce l'ha volato sopra per farlo diventare come? Ma se lo trovo io di sopra, appena vedo ma che ho pigliato. Ma c'è il suo trucco da fare la Z, dalla Z. Dai tappi alla mascherina, ai pomelli, a tutto quanto, proprio fatto proprio la perfezione. Ti ha pintato blu, lo volevi far tornare lustro. No, diciamo che ho cercato di fare nel mio nel possibile, ho cercato di renderlo, come dire, presentabile, capito? Presentabile. Dopo è stato la chiesa la giornata di Usi che. La valutazione che io ho fatto del percorso, dopo quello che ci ho messo, ho detto, si può pure usare, insomma, ci provo, non esce della vetrina, ma, per dire, si deve anche accontentare. Ha cambiato aspetto. Adesso, è come te tu, gatto, che ti cuci la faccia da un foglio di fango, ti fa la fotografia e dopo andi in maglia e ti lavi. Altra seconda. Ha tenuto proprio male allora. Sì, era capricciato una gattina, era. Tenuto le capre, ha durato in mezzo a... Secondo me di poche cadere meglio. Come struttura in terra è buona. Sì, come struttura in terra già era abbastanza discreto, c'era qualche modifica che era stata fatta e dopo l'ho eliminata io, ma sono stato rispettato tutto. Ho spinato di dieta, ma usciva il cavo diretto invece l'ho messo lo spinotto che puoi disinserire dal cappetto e rimane il pezzo di dentro, capito? Come le baracchine. Tante cose così era il cazzo, l'ho preso con un gas di a me. Piano piano me l'ha già fatto, dai. Adesso c'è i risultati. Sì, anche il microfono, non l'ha visto. Il microfono l'ha trovato con la fiato, l'ha trovato con la ricciata da zero. E l'ha trovato lucido come te li penso. L'ha trovato cromato. Sì, credo. Se uno ci tiene una cosa, si appetta, la fa bene. Sì, certo, ci tiene, ma... Giustamente devo sapere curvare le cose, devo sapere i metodi, i tecnici per poter fare delle cose. Non è che dici sì, io mi tengo, sì mi tengo, ma se a voi non faccio capacità, non ho capacità a fare le cose, le devo fare un altro, capito? Non mi sono capitato, mi sono avventurato, grazie a Dio. Davvero, che anche soddisfazione ne ha giocata. A me non la tua cosa personale, te l'hai fatto come hai voluto tu. Fatto come volevo io, giustamente anche perché me lo volevo tenere io. Un domani alla vendita, lui ti dice, ma cazzo, ma non è come te, è proprio una cosa. Non è esatto, lo so che fai anche io. Lo so che anche io. Che non mi piace una cosa, non la fai. Quello sì, quello sì. Poi io preferisco, dico la verità, preferisco l'avrei preferito nero, invece li fanno grigi. Il nero sarebbe stato bello, con le scritte bianche. La pensi come per me. Oppure del colore del toccai, che è più bello. Antichizzato, cazzo da zucchero, quella felice martellata. Un blu metallizzato, un martellato. Un martellato perché c'ha proprio. Si vedono proprio i segni della tipo come è stato fatto, capito l'hai? Invece la brodice proprio che fa quell'effetto. Cappa, cappa. Sono dei bei colori quelli. Però io la stessa faccio tutta nera, tant'è vero che una volta ho preso un alimentatore e ho trovato solo bianco. Era bianco, come è arrivato a casa, tutto il coperchio, vai subito per il centro di nero. E tutto lei così. Sì, sì, mi ha detto la puntata questa cosa, sì, sì. Però me li facevano quei così lì, magari erano delle apparecchiature che più da stazione, diciamo così, da radioamatore erano impegnate magari per laboratori. E mi sa che molte volte ci sono tipo oscilloscopi, capacimetri, perimetri, gli alimentatori quelli digitali, regolabili, perché sembra quei grigi, tipo bianco ghiaccio, una cosa del genere, so. È negativo. Comunque, io sono uno di quelli particolari, non ho mai da così, se non vado tutto precisino, o io. No, io stesso sì. Io sono giustamente cerco di fare il possibile. Però tengo anche in considerazione che la cosa, quella che, capito, quindi non posso pretendere miracoli. Però se è una cosa proprio calorosa, calorosa, no, assolutamente. Ma se la cosa è abbastanza presentabile, che io ripeto, a me piace, altri magari non può piacere perché sono magari, non la sto parlando di un negozio, ho trovato una vetrina, tipo un edificio, e non li tocchi nemmeno, qua tu vai un vero davanti. Cioè, tu non hai mai contattato quelle tecnocomunicazioni che fanno le fiere in continente, te ne busco, ti mandano lì con tutti gli apparati che ti tirano anche a seconda mano. Sì, sa, ma già, ma non quando fanno le fiere, ma qui la Carogna non fa, che non hanno fatto un accidente, siamo un'isola. Però se l'avrebbero fatte qua, sarebbe piaciuto andare a vederle. Ma come ti vai? Mi hai detto che sia pura. Lo so. Ma purtroppo qua non ne fanno. Io per dire con Desiree, quello della tecnocomunicazione, c'ho fuori confidenza, mi ha detto ti mando il prima quando ritiro le apparecchiature, faccio vedere come sono. La prima volta, ma non è che dopo che tu stai appresso a te, a me, o la Cesia, è un sito, tutti in mezzo pagati, no? Appagato. Sarebbe stato bello organizzarle qua. Cosa faccio lì qua vai, l'ultimo passaggio? Non ho capito. Cosa ti ho detto quest'ultimo passaggio? Ho capito, ti ho detto, cosa ti ho detto quest'ultimo passaggio? Cosa ti ho detto quest'ultimo passaggio? Quello del colorino. Sì, ripetilo cosa ti ho detto. Io che... stavamo parlando delle fiere, delle cose. E guarda il giudizio. Ah va, cosa mi fa a me? Uia, è vero. Ma cosa? No, non lo so, ma cosa, lo sì. Una cosa, fatti una cosa, là. Non ti ho capito, ti ho detto, ripeti, ma... Ma ci ho domandato una cosa, così, giusto, ma di a vedersi in affetto. Ah, e invece ero distratto, va. E non lo so, Luiso. Non c'è più un peso, c'è l'ho. Sì, vabbè. Ah, forficcia. Ripeti, baraga. Se la stata verso il caso della telecomunicazione. Io no, adesso no, adesso no. C'ho praticamente un po' di confidenza perché sono stato il primo a Sassari, che ha fatto gli ordini e poi ho fatto conoscere i microfoni a professor un po' a tutti, diverse cose, capito? Quindi mi faceva anche gli sconti, a volte non mi faceva pagare il viaggio. E che cosa fa? Tecnocomunicazione. Ma la professor non ce l'ha solo lui, c'erano anche altri? Penso di sì, penso sì, ce l'hanno anche altri sicuramente. Di sta prof si ha giocato la linea da loro. Qual è preso? Tu da tipata di caffè. Lo vuole al mio. Dove c'ha la capacità di sigari davanti, più attacchi da 3, da 7 volt. Allora, te lo dico io, ma è più grande. Allora, prima di tutto guardi gli strumenti, ok? Rotometro e amperometro. Con cui paraccio di sigari gli va una potenza massima di carico di 10 ampere. Da cui va una console di 4 spinetti. Non si sente negativo, per il tuo conto rosso e nero, quindi sono punti tuoi. E non puoi caricare più di 3 ampere. Allora, è regolabile da... Non che non lo butto in una macchina, ma perché la giubbusco già, io dicevo che in continuo, senza che tu lo tocchi, se no mi sarà troppo regolare da 10 o da 9, ma metto che fa 15. A mano me la metto per la verità, io sono io, non so così pure che come se me l'hanno regato, ci sono guardi che c'era quella la tensione fissa, basta metterlo in posizione tensione fissa, dopo l'altro quando si inserisce col potenziometro aumentare e diminuire il voltaggio, ma a me non mi interessava, raggiungo sul fisso, punto e fascia. Sì, io vorrei il mio, là. Sicuramente quello vuole il mio. Ho capito. E così vanno bene, però a me mi ha dato questo problema, non so se te ne ho parlato, che va in protezione come lo accendi, ma poi devi aspettare qualche minuto e dopo lo accendi e sta tranquillo tutto il tempo che lo fu. Ma ti ha bruciato di chiesa, vedendo come il suo voce che l'hai mandato, tu l'hai dato di lì, tu l'hai mandato, tu l'hai dato di lì, non sono cosa, tutto era lo stesso. No, io mi sono accorto che c'è una cosa, che c'è le protezioni giustamente, quando si dovesse toccare magari un capetto di alimentazione, del paracchino o di qualunque cosa sia, insomma che stai alimentando, se si dovessero toccare, oppure magari che tu lo muovi, fai un movimento errato, e questo me ne sono accorto perché sicuramente le cose sulle attaccate non si sono... Non penso che si siano toccate appunto il positivo o il negativo di quello che era attaccato. Ma aggiungo che come te lo tocchi, secondo me te lo tocchi, via, censura e si pone protezione. Dunque devi aspettare qualche minuto e lo riaccendi. In effetti è così. Buonasera. Ciao Sara. Anche tu? K. Ok, ciao Giallo, buonasera. Salottoni anche di Agiane, sì, è così, fai protezione, lo devi diciamo spegnere, lo riaccendi e poi si stabilizza. Quello subito, perché ho provato, sa, a riaccendere, a spegnere, e non fa via nulla. Allora lo lasciavo un attimino così, non so se era un 30 secondi, un minuto, perché non è che ho preso il cronometro, ecco, per carità. Però l'ho riacceso, magari mi stavo mettendo a fare qualche altra cosettina, dopo poi l'ho riacceso, visto che ripartiva, ed è veramente, veramente ultimo questa situazione qua. Avanti Gianni. Io pensavo che fosse un difetto. No, già, assolutamente, non è un difetto, anche io pensavo, ho detto, infatti quando mi è successo a me, sono andato dietro dove c'è il tastino rosso, per cambiare il voltaggio, per non lasciare quello fisso, sono andato subito sul fusibile, perché attaccato a quel tastino c'è il fusibile, invece no, è proprio così, va proprio in protezione, capito? Poi si blocca, lo devi spegnere, poi riaccenderlo e si stabilizza, ed è buono, diciamo, che sia così. Infatti, è solo che se lui va a Brescia, perché io ho notato una cosa, se fa delle scintille, dopo con le scintille dopo riaccende. Ok, dai, no, già va bene, ma grazie a Dio, fino adesso diciamo, sta andando sempre bene, dai, non mi ha... Inizialmente sembrava che desse dei problemi, che questo e quest'altro, però in effetti non era lui. Quando, non so se vi ricordate, quando avevo quello l'Omega, il Magnum, l'Omega, l'S45, io pensavo che fosse l'alimentatore, poi prove contro prove, tira, molla, ho scoperto che non era in effetti l'alimentatore, ma bensì l'apparato, tutto lì. No, è un buon alimentatore, diciamo. Avanti, Gian. Ehi, adesso ho cambiato un attimino qua, situazione. Ehi. Hola. Davvero, volevo fare roba. Domani non si sa come tenere il tempo. Non ha già mai dato televisore. Ma ancora domani ha messo quel tempo, diciamo. Si dovrebbe diciamo di nuovo rivoltare di nuovo a fine settimana, capito? Ehi. Vabbè, dai, io me ne vado tutto quanto a nanna, che mi sta venendo la biocco. Vi saluto tutti cordialmente, vi auguro una buonanotte, e io continuo questo. Ciao, buon domani, intanto domani a mattina ancora una di pausa. Ma se non percepisco ciò che si dice, mi sto mezzo drummendo. E la di la faccia? L'immagine dove leva fredda, ti risaleggi la faccia, allora vedi come ti discende, subito. Però io sono visitato, figurati tu, non faccio proprio sono di niente. Eppure questo pomeriggio ero intenzionato a riposarmi, no? Invece sono comprato giusto il magazzino, ma giravo da una macchina, 30 ore. Mi sono lasciato più di 2 ore e mezza. Va bene. Ok, anche io ne approfitto, vi saluto. Sono entrato giusto così per fare due chiacchierine. Ciao Gianni, buonanotte, buon tutto. Ciao a te, saluto. Ok, allora dai, faccio, avete cosa da fare, giustamente, e domani magari un'altra giornata, d'accordo, dai, allora dai, io continuo, mi guardo un po' di TV, fino a che non mi addormento anch'io, dai, dai, ciao Sandro, buonanotte, buon tutto, buon 144, quando lo farai, buon tutto per domani, altrettanto a te Gianni, dai. Allora domani ci sentiremo di mattina, allora dai, se tutto coincide sempre. Ciao a tutti e due. Avanti Gianni. Buonanotte, dai, ciao Gianluca. Sogni d'oro. E anche a te. Buonanotte. Via.